Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Si è appena concluso qui a Milano il Salone del Mobile. Noi siamo andati in cerca di quelle proposte che in qualche modo incrociavano il tema principale del Salone del Mobile, che poi è quello del design, con il tema della Smart City. Abbiamo trovato un po' di cose, ve le racconteremo questa sera e in alcune delle prossime puntate. Cominciamo da una iniziativa che vede coinvolto RSE Ricerca Sistema Elettrico. Già abbastanza sorprendente questo connubio, e eppure l'RSE si è manifestato in modo molto concreto in centro a Milano, a Piazza San Fedele, con un oggetto che resterà lì ancora pochi giorni. Andate a vederlo se non l'avete ancora visto. L'oggetto si chiama E-Cube, ce ne parla Stefano Besseghini, che è amministratore delegato di RSE. Buonasera Besseghini. Buonasera a tutti. Allora Besseghini, che cos'è E-Cube? Cubo è un'installazione consistente in un cubo di 5 metri di lato fotovoltaico con un sistema di accumulo di energia al proprio interno, in grado durante il giorno di caricarsi, durante la notte di restituire questa energia in forma di illuminazione, ricarica di veicoli elettrici, alimentazione di un hotspot wifi, alimentazione di un'installazione video che è contenuta all'interno del cubo, ma è soprattutto un dado lanciato nel centro della città, in una delle piazze più belle di Milano, per essere provocativo rispetto un po' a questa idea, a questa black box che spesso è la Smart City, un concetto non ancora interamente declinato, non ancora completamente definito, un cubo nero progettato da Romolo. Infatti è proprio un cubone nero, sembra un po' uno di quei monoliti di Odissea nello spazio, no? Beh, un po' quella suggestione. C'è, è vero. C'è Romolo Stacco, che è l'architetto che l'ha progettato, ha pensato a un sistema che nella contraddizione si integrasse bene con l'architettura urbana. Quindi un oggetto di design molto moderno che offre però tutta una serie di servizi di connettività, di alimentazione elettrica, eccetera eccetera. E questo ci porta in direzione del motivo per cui avete fatto questa iniziativa, che è un progetto che vede coinvolto l'RSE e dei designer. Il progetto si chiama Smart Design for Smart City. Ci spiega di che cosa si tratta? Appunto, Cubo non è un prodotto, evidentemente, è proprio un dimostratore di lancio. Il progetto è un progetto che è nato con la rivista Ottagono e con un gruppo appunto di designer e di progettisti. L'ambizione è quella di sposare la ricerca scientifica, quindi l'attività che fa RSE, con la capacità di visione e di integrazione nel territorio urbano che gli urbanisti, i progettisti, gli architetti hanno. Quindi il progetto sarà un progetto di un anno, queste persone verranno in RSE a fare della formazione, tra virgolette, per avere concetti a stato dell'arte sulle tecnologie che si possono impiegare all'interno delle Smart City. Parliamo soprattutto di tecnologie di rete, che è il vostro core business, diciamo così. Molta tecnologia di integrazione tra piattaforme differenti, ma anche della generazione da fotovoltaico, generazione da mineolico, insomma ci sono diverse tecnologie che si possono prestare. Il tutto con un'ambizione di fondo però, che è quella di far sì che un valore aggiunto del Made in Italy, che è certamente il design, sposi una ricerca di punta dell'Italia, che è quella sulle smart grid e sulle smart city, per dare luogo a degli esiti che siano dei prodotti che le aziende possono fare propri. Un po' il concetto della macchina dimostrativa che si espone al salone. La tecnologia non andrà direttamente in strada, ma è da quella tecnologia che si parte per fare prodotti che poi vanno in strada. Dove vi aspettate che questi designer diano dei contributi? Quali sono i punti di più forte intersezione tra la prospettiva della Smart City e i temi del design? Voi su che cosa punterete? Ma intanto sicuramente sul fatto di fare in modo che la tecnologia prenda una faccia e una, diciamo così, disponibilità all'interazione con le persone, per cui diventi naturale averla presente all'interno delle città. Perché questa tecnologia è embedded, ormai siamo all'internet delle cose e quindi anche le reti e i sistemi energetici si integreranno sempre di più nelle cose, avranno bisogno di una loro declinazione particolare. Io penso sempre a come le auto hanno modificato, nel bene o nel male, le strutture urbane. Ecco, la tecnologia che diventa pervasiva sarà in grado di modificare questo contesto urbano, non saranno i ricercatori e i tecnologi a pensare questo connubio, lo possono fare persone che sono abituate a ragionare intorno all'interazione con le persone delle cose. Insomma, anche una serie di oggetti, poi ne parleremo, di colonnine di ricarica, per esempio per le auto elettriche, che invaderanno la città, forse dobbiamo evitare di buttarle lì, dobbiamo pensarle bene, pensare bene a quali funzioni possono offrire, anche al fatto che sono degli oggetti presenti nel panorama urbano, che vanno anche pensati in modo che si integrino per bene, no? Insomma, c'è un aspetto, come sempre, funzionale ed estetico, che poi è il mestiere dell'architetto. Perfetto, la colonnina è un esempio quasi paradigmatico, però ci sono diversi temi che si prestano a questo tipo di declinazione. Grazie Stefano Besseghini. Grazie, buonasera. Bene, domani continuiamo a parlare di design di Smart City, ma prima di lasciarci c'è Federico Pedrocchi, che sempre al Salone del Mobile ha incontrato Jannis Heilmann dell'Università di Arte e Design Karlsruhe in Germania, spero che la pronuncia sia corretta, che ci parla di una proposta nata nei loro laboratori. Sentite. Sono davanti a una simulazione di una facciata di una casa e su questa facciata c'è come una ragnatela, che però è ben studiata, insomma, è progettata con l'intenzione di avere un disegno architettonico che indubbiamente dà un valore estetico a questa facciata. Però questa ragnatela è fatta di tubi e questi tubi sono un pannello solare. Esattamente. La designer è Adriane Reis. Lei ha realizzato questo progetto. La sua intenzione era di trovare una soluzione estetica per il solare termico utilizzando materia plastica, quella prodotta dalla BASF. Quest'idea lascia molto spazio creativo e tante possibilità di applicazione per decorare e giocare, possiamo dire, sulla facciata, usando semplici tubi. Nei tubi si può scaldare o acqua o aria, che poi possono essere utilizzati per gli impianti negli appartamenti. Bene, per ora ci fermiamo qui. Domani continuiamo a parlare di design e Smart City e andremo a vedere che cosa potrebbe accadere in cucina. Buona serata per intanto.